Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che il leader nordcoreano sia un problema e un pericolo è chiaro ed evidente a chiunque in giro per il mondo. Che il modo migliore per riportarlo a ragione sia isolarlo ulteriormente piuttosto che dialogarci, questo è discutibile. C'è qualcuno che propone perfino di dialogare con l'ISIS, quindi c'è qualcuno che pensa a dialogare con l'ISIS, penso che sia preferibile dialogare anche con la Corea del Nord. Così disse Salvini, leader della Lega, a proposito di quello che è successo ieri. Abbiamo parlato ampiamente, no, di questa celebrazione dell'anno nuovo da parte della Corea del Nord con l'esplosione del test della bomba H, anche se continuano a esserci molti dubbi. Effettivamente dicevano gli esperti sia sudcoreani che americani che l'esplosione della bomba H sarebbe di una enormità che neanche si può immaginare, quindi probabilmente invece forse si tratta di una bomba miniaturizzata. Insomma, ancora da un punto di vista tecnico non è chiaro che cosa sia effettivamente successo. Sapete che è un paese piuttosto oscuro, insomma difficile già da altre nazioni avere la verità, anche in casa nostra spesso su tante cose, figuriamoci dalla Corea del Nord. Però questa sera parleremo anche di molte altre cose, ci occuperemo diciamo da un punto di vista geopolitico di molti argomenti, no, perché ci sono sempre Arabia Saudita e Iran in campo che continuano con questa conflittualità che cresce e per il momento da un punto di vista diplomatico questa, diciamo, crisi, guerra, anche se c'è stata di mezzo la decapitazione di un imam, insomma, vediamo fino a che punto si possono spingere, ne parleremo con un esperto. E poi l'attentato che c'è stato in Libia, ormai c'è il caos che vige in questo paese dal dopo Gheddafi, si sta trasformando davvero in una polveriera incredibile, c'è l'ISIS naturalmente che scorazza avanti e indietro e oggi ha rivendicato un attentato. E poi ci occuperemo ancora di questa polemica relativa a un fatto gravissimo, non è soltanto polemica, la polemica è fuoriuscita da quello che è successo a Colonia, a Capodanno in Germania, queste molestie di massa sessuale nei confronti delle donne, secondo le forze dell'ordine subite da parte di un migliaio di uomini dall'aspetto nordafricano. Ci sono delle conseguenze, non soltanto per le vittime, insomma, però anche una scia, diciamo, di polemica politica all'interno della Germania, con la Merkel che è un po' nel mirino, perché sapete che a un certo punto ha aperto le frontiere, sono entrate circa 1 milione di profughi solo nel 2015 in Germania, ma questa cosa sta provocando varie reazioni. Per esempio la Slovacchia ha annunciato che dopo questo caso ha deciso di chiudere ai profughi musulmani nel paese, della Slovacchia non potranno più entrare profughi musulmani, vedremo poi come sarà possibile. Ne parleremo con un corrispondente in Italia tedesco di questi fatti e di come si sta vivendo questa vicenda in Germania, anche perché qualcuno solleva dei dubbi. E poi molte altre questioni, parleremo, ci collegheremo di nuovo con Las Vegas perché c'è anche un'operazione nostalgia, lì c'è la più grande fiera delle proposte tecnologiche, di quello che già sta diventando il futuro ma presente, ma ci sono anche invece delle cose che ricordano molto il passato, in una chiave però particolare. Ci sono dei giradischi molto singolari di cui parleremo, quindi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, come tutte le sere, per avere un quadro esauriente della giornata, ma anche per approfondire alcuni argomenti in particolare. Vi vorrei sottoporre questa sera per le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e per i vostri messaggi al 349-238-6666 due argomenti comunque in parte collegati. Allora, a proposito di terrorismo, il Censis ha fatto uno studio, un sondaggio in Italia, secondo il quale la paura contagia 8 milioni di italiani e fa cambiare loro le abitudini. Per esempio, molti non prendono più gli aerei, i treni, spesso non escono neanche più di casa e la sera e non frequentano luoghi affollati. Sono colpite da questa paura soprattutto le donne tra i 35 e i 44 anni. Voi siete tra questi 8 milioni di italiani che si fanno condizionare da la scia che c'è stata appunto di attentati da Parigi all'avanzata dello Stato Islamico? Anche voi avete cambiato le vostre abitudini di vita oppure no? Pagina Facebook di Effetto Notte o 349-238-6666. E poi voglio chiedervi anche cosa ne pensate di questa decisione della Slovacchia che ha annunciato, vi dicevo, di non voler più far entrare profughi musulmani dopo il caso di Colonia. In realtà poi sono successe altre cose simili ad Amburgo e Salisburgo, ma ne parlerò tra breve. Intanto riassunto come sempre della giornata. In Francia torna la paura, un marocchino di 20 anni entra in un commissariato con una finta cintura esplosiva e viene ucciso dalla polizia nel giorno dell'anniversario di Charlie Hebdo. Libia, attacco kamikaze con un camion bomba, morti una 60ina di poliziotti, rivendicazione dell'ISIS. La crisi tra Arabia Saudita e Iran, Teheran accusa Riyadh di aver bombardato la propria ambasciata in Yemen. Le molestie sessuali di Massa Colonia, denuncia anche ad Amburgo e Salisburgo da parte di donne aggredite a Capodanno. E la Slovacchia dice dopo questo caso niente più profughi musulmani. Borse, la tempesta cinese affossa ancora i mercati. In Europa listini aprono male, poi riducono le perdite in chiusura. Disoccupazione, secondo i dati Istat, scende all'11,3%, il dato migliore dal 2012. Mafia Capitale, condannato a 26 mesi l'ex assessore Ozimo, e sul caso Quarto interviene Grillo, dice il Movimento 5 Stelle non ha mai ceduto alla camorra. Le donne morte in gravidanza, escluse le responsabilità degli ospedali. Il triste addio a Silvana Pampanini, la camera ardente è deserta. Per lo sport, Platini si ritira dalla corsa alla presidenza della FIFA, il numero uno della UEFA, squalificato per 8 anni, rinuncia. Le elezioni ci saranno il 26 febbraio. E partiamo quindi dalla Francia, che torna ad avere paura, la sua capitale in particolare Parigi. Nel giorno dell'anniversario dell'attacco alla rivista satirica Charlie Hebdo, ricordata oggi dal presidente Hollande, la metropoli torna appunto a tremare, perché un marocchino di 20 anni è entrato in un commissariato con una finta cintura esplosiva e pare un coltello da macellaio, e è stato ucciso dalla polizia con 3 colpi di pistola. In tasca aveva un documento che comprovava, secondo la polizia, la sua adesione all'ISIS, ma alcune testimonianze fanno sorgere alcuni dubbi. Ne parleremo però direttamente collegandoci più tardi con Parigi. In Libia poi attacco kamikaze con un camion bomba nella città di Zlatan, sulla costa del Mediterraneo, nell'ovest della Libia, circa 35 km da Misurata. Sono morti una 60ina di poliziotti. C'è stata la rivendicazione dell'ISIS, che sempre più, vi dicevo, sta penetrando in Libia, approfittando della terribile situazione di caos seguita al dopo Gheddafi, come capiremo meglio più tardi con un esperto di Libia. E non c'è invece l'ombra del terrorismo in Egitto, dietro l'assalto a un pullman di turisti. Almeno 74 morti e decine di feriti, un bilancio pesante che continua a salire, quello dell'attentato presso il centro di addestramento della polizia giudiziaria di Zlatan, città sulla costa occidentale della Libia. La deflagrazione è avvenuta questa mattina alle 8 ad opera di un camion imbottito di esplosivo durante la cerimonia di consegna dei diplomi delle reclute, un'operazione di martirio rivendicata da Daesh, scrive l'agenzia AMAC, uno dei media ufficiali del califfato, anche se nessuna rivendicazione diretta è arrivata. L'ISIS in questi giorni sta comunque guadagnando terreno in Libia con un'offensiva lanciata lunedì dai gruppi jihadisti per il controllo dei porti petroliferi più importanti del paese. Oggi, di fronte al pesante attentato, la diplomazia occidentale torna a fare appello all'unità del popolo libico. È urgente, dice il ministro degli esteri Gentiloni, attuare l'accordo politico recentemente firmato, superando le divisioni interne per dar vita a un governo di accordo nazionale. E intanto tensioni anche in Egitto, dove un pullman di turisti, tra cui 2 israeliani, è stato attaccato da alcuni uomini armati nei pressi delle piramidi. Nessuna vittima, ma secondo fonti locali non si è trattato di un attacco terroristico, ma di un atto innescato da una lite. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora la crisi tra Arabia Saudita e Iran. Teheran accusa Riyadh di aver bombardato la propria ambasciata in Yemen, ma sino dove può giungere questa tensione, questa crisi? Un alto diplomatico di Riyadh avrebbe assicurato che non potrà mai sfociare in una guerra, però ce ne occuperemo tra poco, perché poi ci sono anche naturalmente le ripercussioni un po' a livello internazionale, mondiale, persino appunto sulle borse. Una situazione infatti internazionale tesa, che ha riflessi diretti sull'andamento dei mercati finanziari. Anche oggi è stata una giornata di cali, è stata una giornata di tensione sui mercati dopo lo stop delle contrattazioni in Cina per effetto della svalutazione delle yuan. I listini aprono male, poi riducono le perdite. Piazza Affari ha chiuso a meno 1,14%, dimezzando le perdite dell'arco della giornata. E la Cina ha deciso di sospendere questo meccanismo di blocco automatico degli scambi borsistici introdotto da quest'anno. Dati italiani sulla occupazione sono positivi, quelli diffusi oggi dall'Istat. Soddisfatto il presidente del Consiglio Renzi. Dati sul mondo del lavoro, quelli diffusi dall'Istat, che si riferiscono allo scorso mese di novembre. La disoccupazione si attesta allora all'11,3%, toccando i minimi da 3 anni. Gli occupati sono cresciuti di 36.000 unità su ottobre, di 206.000 in un anno, più 0,9%. In diminuzione la disoccupazione nella fascia d'età 15-24 anni, con un valore che si ferma al 38,1%. Il dato più basso da giugno 2013, segnala l'Istat. Crescono quindi i dipendenti a tempo indeterminato, più 40.000. 30.000 in un mese. La disoccupazione continua a scendere, commenta il presidente del Consiglio Renzi. È la dimostrazione che il Jobs Act funziona. Le riforme danno buoni frutti, dice il ministro del Lavoro Poletti. Così Fiano, PD. Ci inducono all'ottimismo, ancora molto c'è da fare, ma il paese, l'Italia, sta cambiando finalmente segno. Una rondine non fa primavera, attacca da Forza Italia Romani. Brunetta aggiunge. A fronte di fortissimi incentivi abbiamo numeri invero limitati di miglioramento del mercato del lavoro. I dati dell'Istat, commentano dal sindacato, sono positivi, ma la disoccupazione resta alta. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo così alla vicenda delle molestie sessuali di massa a Colonia. Denunce, in realtà, vi dicevo, anche ad Amburgo e Salisburgo in Austria, da parte di donne aggredite a Capodanno. La polizia tedesca lo ammette, la notte di Capodanno potevano esserci dei morti. Il fallimento delle forze dell'ordine, mentre almeno 121 donne venivano molestate e due pure stuprate, amplifica ulteriormente i toni della polemica e costringe Angela Merkel a prendere ufficialmente posizione. Quello che è successo è inaccettabile e ripugnante, scandisce la cancelliera, finita pure lei sotto accusa per le politiche di apertura ai migranti. Tutti continuano a ripetere che gli aggressori, 16 quelli identificati, erano arabi o nordafricani e questo, insieme a notizie di molestie pure in altre città, potrebbe accelerare un piano per velocizzare le espulsioni degli stranieri colpevoli di reati. Al Bundestag se ne parla e la Merkel concorda, bisogna dare segnali chiari. Anche perché in quella notte caotica e vergognosa, per dirla col funzionario autore di un rapporto, non sono mancati pure gli sberleffi. Mi dovete trattare gentilmente, mi ha invitato Frau Merkel, avrebbero gridato alcuni stranieri ed altri avrebbero stracciato i documenti. Così, davanti al caso tedesco, la Slovacchia fa sapere di non volere più accogliere profughi musulmani. Non vogliamo, sentenzia il capo del governo, che si ripeta quanto successo in Germania. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E appunto, vi dicevo all'inizio, cosa ne pensate di questa decisione della Slovacchia? Più tardi ci collegheremo con il corrispondente dall'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Intanto voi continuate con le vostre riflessioni sia attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666 e poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. E intanto la cancelliera tedesca Merkel ha richiamato i partner europei alla responsabilità comune sulle frontiere. Schengen deve sopravvivere e il numero di immigrati deve calare. L'Europa apre ufficialmente i battenti del nuovo anno istituzionale lanciando questi due messaggi. Il primo è appannaggio del presidente della Commissione Juncker, che definisce un dovere collettivo il salvataggio dello spazio di libera circolazione europea e accusa non si può andare avanti con governi che giorno dopo giorno ripristinano i controlli alle frontiere. L'obiettivo, ribadisce Juncker, è arrivare a tappe forzate alla creazione di una guardia di frontiera comune entro giugno. Dal canto suo, la presidenza di turno olandese dell'Unione rafforza i toni dell'area nordico-scandinava, che vuol vedere un calo negli arrivi in Europa. I numeri devono scendere. Non possiamo continuare così, ha detto il premier Mark Rutte. Sullo sfondo, Bruxelles prova a riavviare i rapporti con la Turchia. Il vicepresidente della Commissione Timmermans andrà domenica ad Ankara per fare il punto sul piano d'azione concordato a fine novembre. Piano che fa già acqua. Un po' perché i turchi non hanno visto granché dei 3 miliardi promessi dall'Europa e un po' anche perché l'Europa parallelamente non vede il flusso di immigrati calare sulla rotta Egea. Intanto il governo svedese ha esteso i controlli temporanei alle frontiere di un altro mese, fino all'8 febbraio. E la Finlandia annuncia nel 2015 il numero di migranti arrivati è aumentato di 10 volte rispetto all'anno precedente. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana, dove domina soprattutto il caso che riguarda l'inchiesta sul comune di Quarto, vicino Napoli, per sospette infiltrazioni camorristiche. Ieri qui, vi ricordate, Effetto Notte, era ospite la sindaca di Quarto, Rosa Capuozzo, del Movimento 5 Stelle. Sentiamo allora un breve passaggio del suo intervento. I lavori della Camorra non li vuole nessuno. E ovviamente, soprattutto, non li vuole il Movimento 5 Stelle, ma noi abbiamo avuto un plebiscito, abbiamo avuto il 70% di voti, abbiamo avuto 10.000 voti. Quei voti non sono voti tutti di voti camorristi, noi siamo saliti con una percentuale altissima e fatta di persone oneste. Quindi non sono voti inquinati, comunque... non è un voto inquinato, dice quello che l'ha eletta. Assolutamente no. Ma se fosse in questa inchiesta dovesse emergere che effettivamente ci sono state infiltrazioni, che dei voti, molti voti sono stati portati dalla Camorra, lei sarebbe disposta a dimettersi, sindaca Capuozzo? Guardi, io ho già risposto, però mi ho risposto anche prima, insomma. Siccome il voto è stato alto ed è stato forte ed è stato plebiscito, non accetto di dimettermi, perché in realtà non posso, per tutta la parte onesta, quarto che mi ha votato. E oggi dal suo blog è intervenuto su questo caso anche Beppe Grillo, che ha detto: la camorra non condiziona il Movimento 5 Stelle di Quarto e il sindaco non ha mai ceduto alle richieste dell'ex consigliere, quel Giovanni De Robbio, di cui abbiamo parlato ieri, cacciato dal Movimento 5 Stelle a dicembre. Ma il PD incalza, e sentiamo allora cosa dice Emanuele Fiano del PD. Quello che si deve fare in quel comune probabilmente è chiedere lo scioglimento del comune, perché non è che una questione riguardante solo un assessore che è stato espulso dal partito, è il meccanismo elettorale che va verificato, se cioè quelle elezioni municipali si siano svolte regolarmente, ovvero siano state inquinate, quindi inficiate dalla pressione, dall'inquinamento della camorra. E è bene in questi casi, è sempre bene, non usare due pesi e due misure. Il Movimento 5 Stelle usi verso se stesso e verso i comuni che amministra la stessa morale che usa sempre contro gli altri partiti. Mafia Capitale, l'ex assessore PD del comune di Roma, Daniele Ozzimo, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi con rito abbreviato nell'ambito appunto del processo a Mafia Capitale. Ozzimo è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Era tornato libero il 24 dicembre dopo il riascolto di un'intercettazione di Salvatore Buzzi, che contrariamente a una prima trascrizione afferma che Ozzimo non prende soldi. E addio a Valerio Zanone, l'ex leader del Partito Liberale, è morto a Roma a 80 anni per una malattia che l'aveva colpito da un anno. Torinese, più volte ministro, sindaco di Torino dal 90 al 92, parlamentare per 6 legislature, passò con Prodi prima e poi con Rutelli dopo. Voleva essere ricordato come liberale, democratico, laico, europeista, sociale. Siamo alla cronaca con i casi delle donne morte per parto a fine dicembre. Si sono concluse le ispezioni ministeriali. Nessuna responsabilità diretta delle strutture ospedaliere. A questo risultato sarebbero giunti gli ispettori inviati dal Ministero della Salute negli ospedali di Torino, San Bonifacio, Bassano del Grappa e Brescia. La relazione finale sarà pronta entro metà gennaio. In poco più di una settimana, tra Natale e Capodanno, nei 4 ospedali erano morte 4 donne in attesa di partorire. Agli episodi si è aggiunto anche il dramma di Foggia, dove una donna incinta è morta in casa prima dell'intervento dei medici, che hanno estratto la figlia viva con un intervento cesareo dopo il decesso della madre. Le procure di Torino, Verona, Vicenza e Brescia avevano aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto le autopsie. Nel caso dell'ospedale di Sant'Anna di Torino, il ministro Beatrice Lorenzin aveva già escluso responsabilità dirette dei medici, ma aveva ribadito in un'intervista a Repubblica: il tragico susseguirsi di decessi in gravidanza potrebbe essere stato una drammatica casualità alla quale però bisogna dare risposte. Nel mondo, dice l'OMS, ogni giorno circa 830 donne muoiono per complicazioni durante la gravidanza o il parto. In Italia ci sono circa 50 decessi all'anno. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore. Il triste addio a Silvana Pampanini, che è morta ieri a 90 anni. A partire dalle 15 fino alle 19 oggi è stata allestita la camera ardente dell'attrice nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Pochissime però le persone che sono andate a renderle omaggio, al feretro chiuso in una bara bianca con sopra 5 rose rosse. Nessun volto del cinema, nessun collega. Le esequie si terranno invece domani mattina alle 11 nella Basilica di Santa Croce al Flaminio. Per chiudere, lo sport con Dario Ricci, che ci parla delle ragazze del volley, della pallavolo italiana. Dario? Eh sì, perché soffrono, faticano, ma alla fine meritano un applauso le nostre ragazze, perché sono impegnate, come te Roberta, nel torneo proolimpico, cioè il torneo che garantisce a chi ancora non ha fatto la possibilità di qualificarsi all'Olimpiade ormai imminente di Rio de Janeiro, che scatterà il 5 agosto. Ebbene, le azzurre, dopo aver perso la prima gara con la Russia, aver vinto al tie break per 3-2 contro il Belgio, hanno oggi battuto sempre al tie break, quindi sempre per 3-2, la Polonia. Un successo molto pesante, perché garantisce alle ragazze di Bonitta l'ingresso nella semifinale contro la fortissima Olanda. Ora, vale la pena ricordare che in questo torneo che si sta svolgendo in Turchia si qualifica solo la prima direttamente a Rio de Janeiro, mentre la seconda e la terza in realtà si qualificheranno a un altro ultimo torneo di qualificazione che si svolgerà a maggio a Tokyo. Insomma, un cammino comunque complicato per arrivare a Rio, ma le azzurre sono ancora in corsa, e per una squadra che fa molta simpatia perché ha protagoniste giovanissime. Basti pensare che la Diouf, che ha appena 22 anni, sembra ormai quasi già una veterana, e che rappresenta, Roberto, e vado a chiudere, veramente uno spicchio dell'Italia di oggi, ma anche dell'Italia di domani, perché sia la Diouf, che ha origini senegalesi, sia la 17enne Paola Egonu, il volto nuovo, che ha genitori nigeriani, beh, davvero ci fotografano uno specchio dello sport azzurro di oggi, ma davvero anche del futuro. Grazie Dario Ricci, questa è la pallavolo. Grazie a voi. femminile. E prima di lasciarci brevemente, proprio la viabilità, siamo già molto in ritardo, è solo uno dei vostri tantissimi messaggi che stanno arrivando sia sulla decisione della Slovacchia sia sul studio del Censis sulla paura degli italiani. Per la Slovacchia scrive un ascoltatore, Luca da Savona: da oggi mi sento più slovacco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie e cominciamo a entrare nel cuore di alcuni degli argomenti. Ringrazio Fabio per il buon anno e poi gli altri vostri messaggi ancora sulla Slovacchia, che sapete ha annunciato, dopo i casi di Colonia delle molestie sessuali di massa nei confronti delle donne, di non voler più far entrare profughi musulmani nei propri confini, insomma nel proprio paese. La Slovacchia fa bene, a casa tutti, scrive un ascoltatore. Ilaria sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: ogni scusa è buona, parrebbe per ricominciare a mettere filo spinato. Bel fallimento questo sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Potete continuare a scrivere qui le vostre opinioni, così come al 349-238-6666. Quanto all'altro input che vi ho lanciato questa sera dello studio del Censis, di questo sondaggio sugli italiani, secondo il quale la paura contagia 8 milioni di connazionali e cambia le loro abitudini dopo i massacri di Parigi e l'avanzata dell'ISIS, con molte persone che decidono di non entrare più in luoghi affollati, di non andare al cinema, di non frequentare aerei e treni e anche magari non uscire la sera tardi. Floriano scrive: non si possono cambiare le abitudini per dare la vinta ai terroristi. Certo, in qualche occasione, quando la gente è tanta, un pensierino passa, ma tanto vale, io non ho modificato i comportamenti. Continuerò poi con i vostri messaggi. Intanto, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, vi dico comunque quali sono le notizie più importanti del giorno. Borse, la tempesta cinese affossa ancora i mercati, Europa piccola, nel senso che all'inizio apre male, però poi in chiusura si ammortizzano un pochino le perdite, si riducono le perdite, e New York ai minimi, chiude dal 2003. Paura a Parigi, ucciso un marocchino di 20 anni fedele all'ISIS, e poi in Libia un camion bomba fa strage di poliziotti, 74 i morti. Pugno duro della cancelliera Merkel sugli abusi a Colonia, in altri paesi e in altre città della Germania, e la Slovacchia dice basta musulmani. Disoccupazione per quanto riguarda l'Italia giù a novembre, è al minimo dal 2012, adesso il tasso di disoccupazione nel nostro paese è 11,3% e Renzi dice il Jobs Act funziona. Ancora Mafia Capitale, condannato l'ex assessore Ozimo, l'ex assessore del PD, e poi sul caso Quarto, di cui abbiamo parlato ieri con la sindaca di Quarto, Rosa Capuozzo, interviene Grillo, dice il Movimento 5 Stelle non ha mai ceduto alla camorra. E quindi siamo a un nuovo capitolo nell'escalation, come si dice, nel crescendo, se vogliamo tradurlo in italiano, della crisi tra Arabia Saudita e Iran, innescata, vi ricordate, questa crisi dall'esecuzione il 2 gennaio scorso dell'imam sciita Al-Mir da parte dell'Arabia Saudita, con la reazione, poi le proteste degli iraniani, perché questo sciita, questo imam, era considerato dall'Arabia Saudita uno dei suoi maggiori dissidenti interni ed era uno che si era battuto per i diritti della minoranza a cui apparteneva appunto quella sciita. Il nuovo capitolo, vi dicevo, di questo crescendo di provocazioni tra Iran e Arabia Saudita consiste nell'accusa oggi da parte dell'Iran di Teheran a Riyadh di aver colpito deliberatamente con un raid aereo la sua ambasciata a Sana, nella capitale dello Yemen. Intanto c'è la Somalia che ha preso oggi anche lei le parti di Riyadh, come altri stati si sono schierati dalla parte dell'Arabia Saudita. Un alto dirigente però arabo ha escluso, l'Arabia Saudita ha escluso nel modo più assoluto che la disputa, dice, possa portare allo scoppio di un conflitto aperto tra i due paesi. Ma fino a che punto davvero si spingeranno? Lo chiedo al professor Nicola Pedde, che saluto. Buonasera. Buonasera a voi. Direttore dell'Institute of Global Studies, l'IGS di Roma, Istituto di Alti Studi di Geopolitica, se vogliamo tradurlo, Pedde. Secondo lei, a questo punto, intanto vogliamo ricordare che questa tensione tra Iran e Arabia Saudita ha, diciamo, delle origini molto lontane, forse di secoli, no? Nella conflittualità tra sciiti e sunniti. Sì, sono origini lontane. Il problema è che la dimensione attuale non è onestamente settaria nella dimensione in cui i sauditi vorrebbero farla passare, ovvero sia i sauditi stanno cercando di puntare sul settarismo per alimentare un clima di aperta ostilità nei confronti dell'Iran nel momento in cui l'Iran sta riemergendo sul quadro regionale e con il rischio di diventare nel breve periodo uno dei principali attori politici ed economici della regione. Questo viene percepito dall'Arabia Saudita e dalle monarchie del Golfo come una minaccia esistenziale per la propria sopravvivenza, e quindi si innesca un meccanismo che tuttavia è esacerbato più dall'Arabia Saudita e dalle monarchie del Golfo che non da Teheran. Non è quindi tanto uno scontro tra sunniti e sciiti quanto un problema interno alle monarchie arabe. È un problema di continuità, è un problema di grave dissidio all'interno delle stesse elite di questi paesi, ed è un problema che pone oggi sul tavolo una serie di problemi, tra cui quelli poi di rispondere alle domande di un'opinione pubblica che sempre più comunque guarda ad un modello partecipativo e ad un modello che mette in aperta discussione il sistema dinastico e il sistema verticista di questi stati. L'Arabia Saudita si sente minacciata da tutto il contesto, si sente minacciata da come la comunità internazionale interagisce con altri attori, e in modo estremamente nervoso reagisce attraverso una serie di politiche che sono sostanzialmente basate sul settarismo. C'è da ricordare tuttavia come anche all'interno dell'Arabia Saudita non esiste una visione monolitica e unitaria del problema, anzi è in corso un duro scontro all'interno della famiglia reale, soprattutto tra le componenti della prima generazione, quindi tra i diretti discendenti del fondatore della dinastia e le emergenti e più giovani dinastie. Professor Pede, tra l'altro i due paesi sono in realtà già impegnati a continuare a farsi questa guerra, si dice per interposta persona, insomma, sia in Siria che in Yemen, e anche in Iraq ci sono degli schieramenti, no? Sia verso l'Arabia Saudita che invece dalla parte dell'Iran. Quindi diciamo il conflitto si estende, si ramifica, e secondo lei, anche se appunto adesso lo ritrovo il nome, ecco, il principe della corona e ministro della difesa Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita ha assicurato, dicevo prima, che non si arriverà fino a uno scoppio di un conflitto aperto. Lei pensa che effettivamente siano consapevoli del fatto che sarebbe rischiosissimo? Ma è rischiosissimo oltre, anche perché un conflitto in questo momento è ingestibile soprattutto da parte saudita, non è voluto in alcun modo da parte iraniana, che non, anzi ha cercato in ogni modo di comporre il contenzioso con l'Arabia Saudita quantomeno nel corso degli ultimi 12 mesi, senza mai comunque riuscirci, senza mai trovare le porte aperte della controparte. Il problema è che tutti temono fortemente, non solo gli iraniani ma anche molti degli europei temono fortemente, che l'attuale condizione dell'Arabia Saudita, da una parte la crisi politica e i problemi di faida all'interno della famiglia reale, ma dall'altra la grave crisi economica alimentata da un regime di spesa di quasi $1 miliardo al giorno per sostenere le spese militari in conflitti tutto sommato disastrosi come quelli nello Yemen o in Iraq e Siria, stiano prosciugando le riserve del paese, che unitamente al fatto che il prezzo del petrolio è mantenuto per volontà dei sauditi ai minimi storici per mandare fuori mercato le opzioni di sviluppo dello shale gas americano, ecco, tutto questo potrebbe determinare una gravissima crisi economica nella monarchia a Riyadh. Se questo dovesse determinarsi, saremo di fronte a una delle più gravi crisi regionali dell'ultimo secolo, nel senso che la gran parte dei paesi della regione in un modo o nell'altro dipende in questo momento dai finanziamenti sauditi o degli Emirati Arabi Uniti, e quindi con il venir meno della capacità di spesa del paese verrebbero a crollare quasi immediatamente le economie di molti paesi della regione, primo tra tutti credo l'Egitto, che ci interesserebbe direttamente e farebbe sembrare quasi una inezia la crisi che abbiamo vissuto sino ad oggi con i migranti nel Mediterraneo. Quando una crisi economica importante colpisce un paese da 80 milioni di persone, diventa una minaccia veramente seria per la sicurezza nazionale di tutto l'insieme dei paesi europei. Certo, uno scenario che naturalmente non ci auguriamo. Grazie professor Nicola Pede. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Prima di lasciarci brevemente per pausa di ricreazione, volevo ancora dare un'occhiata ai vostri messaggi. Qualcuno scrive ancora sul Movimento 5 Stelle: tempo fa ipotizzai possibili infiltrazioni malavitose nel Movimento 5 Stelle, è successo, i poteri forti sanno come lavorare, chi vuole intendere intenda. Comunque ieri appunto abbiamo parlato qui a Fettonote con la sindaca di Quarto, Rosa Capuozzo, abbiamo sentito quali erano le sue ragioni, oggi anche le affermazioni di Grillo e poi le accuse del PD. E poi Clotilde dice: vorrei capire perché è accaduto in Germania Germania, la questione delle molestie sessuali di massa in Austria, e non qui da noi, o in Spagna, o in Portogallo, o in Francia. Ecco, vorrei capire, o dice le stragi, Clotilde, non ho capito bene a cosa ti riferisci. In Francia stragi, ecco, vorrei capire, è una domanda, Clotilde, anch'io vorrei capire meglio a cosa ti riferisci, però qualcuno solleva dei dubbi su questa vicenda che è avvenuta a Colonia, anche se mi pare difficile che ci siano centinaia di donne che tutte poi vanno a denunciare alla polizia, come se fossero state spinte, dicevo, da qualcuno, non credo, saranno andate spontaneamente. Ne parliamo tra pochissimo, ritorniamo sulla questione di Colonia, ma anche su quello che è successo in Francia e poi molte altre cose. Pagina Facebook di Effetto Notte e il messaggio è al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Stavo guardando i vostri messaggi, ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte, quindi adesso qualcun altro ne leggo. Roberta Giordano sempre con voi, come sempre fino alle 22. Adesso avremo tanti altri argomenti da affrontare con gli ospiti. Intanto continuo appunto a leggere anche le vostre opinioni, sia i messaggi al 349-238-6666, sia i messaggi sulla pagina Facebook del programma. Per esempio, a proposito del sondaggio del Censis che dice la paura contagia 8 milioni di italiani e cambia le loro abitudini, la paura del terrorismo dai massacri di Parigi e l'avanzata dell'ISIS, e quindi vi dicevo che secondo questo sondaggio le più impaurite sono le donne tra i 35 e i 44 anni che vivono nelle regioni del centro. Insomma, tanti italiani decidono, italiane, di non frequentare luoghi simbolo affollati, non prendono i treni, gli aerei, alcuni non escono neanche più la sera, scrive Alberto. Infatti nella terra dei cachi non circolo dopo le 20 e men che meno vado per locali da ballo dove almeno un terzo degli avventori maschi sono rom coperti d'oro che non aspettano altro che uno sguardo men che rispettoso alle loro persone per scatenare risse senza fine, dice. Poi Alessandra: aver paura è il primo passo per perdere la propria libertà, è un meccanismo psicologico sofisticato che viene sempre più spesso usato dai terroristi. Io ho accettato un lavoro in Tunisia nonostante i 3 attentati, proprio per portare solidarietà ma anche la mia presenza fisica a un popolo che sta pagando duramente per aver scelto la democrazia e la laicità, consapevolezza del pericolo ma nessuna paura. Complimenti Alessandra. Poi continuo con i vostri messaggi, ma intanto ricordo a chi avesse acceso adesso la radio quali sono le notizie più importanti. In Francia torna la paura, un marocchino di 20 anni entra in un commissariato con una finta cintura esplosiva e viene ucciso dalla polizia nel giorno dell'anniversario di Charlie Hebdo, ne parleremo tra pochissimo. Libia, attacco kamikaze con un camion bomba, morti almeno 74 poliziotti, rivendicazione dell'ISIS. La crisi tra Arabia Saudita e Iran, ne abbiamo appena parlato, Teheran accusa Riyadh di aver bombardato la propria ambasciata in Yemen. Le molestie sessuali di massa a Colonia, denuncia anche ad Amburgo e Salisburgo da parte di donne aggredite a Capodanno, e la Slovacchia decide dopo questo caso niente più profughi musulmani. Borse, la tempesta cinese affossa ancora i mercati, in Europa i listini aprono male, poi riducono le perdite in chiusura. Disoccupazione, secondo i dati Istat, scende in Italia all'11,3%, è il dato migliore dal 2012. Mafia Capitale, condannato a 26 mesi l'ex assessore Ozimo, e sul caso Quarto interviene Grillo, dice il Movimento 5 Stelle, mai ceduto alla camorra. Le donne morte in gravidanza escluse le responsabilità degli ospedali, e poi il triste addio a Silvana Pampanini, la camera ardente è deserta. Mesdames et messieurs, vous protégez les Français, vous protégez aussi leur mode de vie, leur liberté. Ce mode de vie, c'est à lui que les terroristes ont voulu s'attaquer. Ecco, il nostro modo di vivere è quello che i terroristi hanno voluto attaccare e vogliono attaccare, così ha ricordato Hollande oggi nel suo discorso l'anniversario dell'attacco alla rivista satirica Charlie Hebdo, è passato un anno esatto, e la Francia proprio nel giorno di questo anniversario torna ad avere paura, non sapete, dopo una serie di attentati fino alle stragi di Parigi del 13 novembre scorso. È avvenuto un fatto molto inquietante, anche se deve essere ancora chiarito, insomma, un uomo armato che poi è stato identificato come un marocchino di 20 anni ha tentato oggi di fare irruzione in un commissariato di polizia nel 18° arrondissement di Parigi, e secondo la polizia avrebbe urlato all'Ai Grande armato di un coltello da macellaio con una finta cintura esplosiva, poi si è capito che era finta. La procura di Parigi ha aperto un fascicolo e indaga per terrorismo. Saluto allora Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Francia. Ciao Marco. Buonasera. Quindi torna la paura a Parigi, diventa una capitale perennemente in stato di emergenza, Marco? Ma sì, oggi c'era una situazione di, ovviamente, di alta tensione in città, perché era l'anniversario della strage di Charlie Hebdo, e ovviamente la situazione era ancora più tesa nei quartieri ritenuti particolarmente sensibili della capitale, com'è sicuramente quello della Goutte d'Or di Barbès, dove è avvenuto l'episodio di stamane. Verso le 11:30, sembra una coincidenza abbastanza scioccante, perché è lo stesso orario in cui, appunto, un anno fa, esattamente un anno fa, i fratelli Kouachi hanno fatto irruzione a Charlie Hebdo uccidendo 12 persone. Un uomo è andato correndo verso il commissariato del quartiere, in mano aveva una piccola mannaia, urlando all'Akbar, Allah è grande. I poliziotti che presidiano il commissariato gli hanno chiesto hanno urlato di allontanarsi, lui ha continuato ad avvicinarsi, hanno sparato 3 colpi, lo hanno ucciso, e sembrava, appunto, che avesse anche una cintura esplosiva, che poi si è rivelata invece finta. La piccola mannaia era vera, è stata ritrovata vicino al corpo di quest'uomo, che apparentemente sembra essere un marocchino di 20 anni, che era già noto alla polizia perché aveva commesso un furto 3 anni fa nel sud della Francia, quindi le sue impronte digitali erano registrate, anche se in realtà dalle testimonianze anche dei poliziotti sembra che l'uomo di stamattina fosse più anziano, avesse un'altra età, ma insomma, quindi è possibile. Si parlava di un uomo sui 30 anni. Senti Marco, scusa se ti interrompo, però sembra che dalla testimonianza di una donna in particolare, di una ragazza, non so che età abbia, una certa Charlotte, lei ha raccontato che in realtà lui si stava avvicinando ai poliziotti, questi gli hanno chiesto di indietreggiare, lui ha alzato le mani, prima indietreggiato, poi è riandato verso di loro. Dice che non era né armato, che non ha urlato neanche alla è grande. Ci sono un paio di testimonianze di un uomo e di una donna di questo genere, i quali sostengono che non era armato, non ha urlato alla bar e che non era aggressivo, aveva le mani alzate. Mi sembra francamente però difficile, perché la maggior parte delle testimonianze sono di tipo contrario. Teniamo conto, e questo è un elemento su cui bisognerebbe in realtà riflettere, che il quartiere, appunto, in cui è avvenuto questo episodio è un quartiere con una presenza di immigrati molto molto alta, intorno al 30% degli abitanti di nazionalità non francese, con una fortissima presenza di musulmani, sono alcune moschee particolarmente frequentate. È sicuramente un quartiere, come dire, dove i poliziotti, ed è un eufemismo, non sono molto amati, non lo è lo Stato, non sono le istituzioni, quindi io tenderei a pensare che si tratta di testimonianze, come dire, un po' provocatorie per contestare una versione ufficiale che apparentemente sembra essere invece quella corretta, anche perché dall'immagine si vede chiaramente vicino al corpo di quest'uomo questa piccola mannaia. Mi sembra, insomma, adesso normalmente le persone non si avvicinano a un commissariato con una mannaia in mano. Senti, e quindi adesso si indaga per terrorismo, comunque pare che avesse un documento in tasca di aderenza all'ISIS. Addosso negli abiti è stato trovato un biglietto con un foglietto con il disegno di una bandiera dello Stato Islamico e un messaggio scritto a mano in cui l'uomo sostiene, appunto, di aver giurato fedeltà al califfo dello Stato Islamico, al Baghdadi, e di voler vendicare gli attacchi in Siria. Quindi, insomma, sembra che elementi ci siano, pensare, insomma, che le cose siano andate diversamente. Ci vuole a mio avviso un eccesso di dietrologia. L'importante, direi, perché appena accaduto c'è stato ovviamente la paura che si trattasse di del segnale di una serie di nuovi attacchi. In realtà è stato un singolo episodio che si è risolto purtroppo in modo drammatico, però insomma è chiaro che la situazione, il contesto, il clima di tensione è tale per cui se ti avvicini a un commissariato presidiato dalla polizia con un atteggiamento, come dire, ambiguo, minaccioso e armato, insomma, si può immaginare poi che poi l'esito, dire, la reazione dei poliziotti non può essere molto diversa da quella che è stata stamattina. Grazie Marco Mussanè da Parigi. Ciao Marco. A voi. Ciao. Ciao. Adesso collegato a, a questo e poi anche alle cose di cui abbiamo parlato, di cui parleremo, sempre il sondaggio del Censis sugli italiani, 8 milioni di italiani che per paura appunto del terrorismo, dai fatti di Parigi all'avanzata dell'ISIS, stanno cambiando abitudini di vita, non frequentano posti affollati, non escono tardi la sera, evitano aerei e treni. Scrive Maria sulla pagina Facebook di Effetto Notte: non cambio abitudini ma mi sentirei più sicura se non fosse un paese di individualisti che si voltano dall'altra parte quando ti succede qualcosa, e se sentissi la piena solidarietà degli uomini, almeno quelli nostrani, contro la violenza sulle donne, il che è tutto dire, dice Maria. Diciamo la verità, noi donne abbiamo il coprifuoco autoimposto da sempre ovunque, purtroppo, Maria. E poi Matteo dice: nemmeno per sogno voglio cambiare le mie abitudini, mica gliela do vinta e mi fido abbastanza dei nostri apparati di sicurezza. E ci spostiamo da parte all'altra del mondo, adesso in Libia, dove oggi un camion bomba, un attentato suicida contro la polizia, ha fatto strage nella città di Zlitan, sulla costa del Mediterraneo, nell'ovest della Libia, circa 35 chilometri da Misurata. È una deflagrazione che è avvenuta alle 8 del mattino, ora locale, ed è finora salito almeno a 74 il bilancio dei morti, delle vittime, che sarebbero reclute, poliziotti, e ci sarebbe stata la rivendicazione dell'ISIS, o almeno attraverso, diciamo, la sua fiancheggiatrice, un'agenzia che si chiama AMAC. Ne parliamo con uno dei maggiori esperti di Libia, che è Arturo Varvelli, che è responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI. Buonasera Varvelli. Buonasera. Ci eravamo lasciati poco prima delle feste di Natale con l'accordo che era stato firmato tra i due governi libici, quello di Tripoli e quello di Tobruk. Finalmente sembrava che si potesse essere una tregua, una convergenza, una gestione unitaria del paese, anche se già Varvelli allora lei aveva detto che, insomma, le speranze e l'ottimismo erano piuttosto sbiadite. E adesso si scopre, insomma, che, anzi, si scopre, già si sapeva da tempo, che l'ISIS, che lo Stato Islamico, l'autoproclamatosi Stato Islamico, prosegue in questa sua penetrazione in Libia proprio approfittando di questo terribile caos che è venuto in seguito all'uscita, insomma, di Gheddafi nel 2011, diciamo, uscita, e anche approfittando proprio di questa frattura tra i due parlamenti di Tobruk e Tripoli, no? E quindi chiaramente loro festeggiano con la strada spianata. Beh, assolutamente così, nel senso che il tempo sta per scadere, perché, diciamo, la designazione del primo ministro libico Serraj, la comunità internazionale aveva imposto un tempo molto limitato, una trentina di giorni, per la formazione del governo, ossia per trovare un accordo tra le varie componenti politiche, ma io penso soprattutto tra alcune delle milizie che controllano la Tripolitania, in particolare la città di Tripoli, la capitale. È essenziale che questo venga trovato, perché naturalmente il nuovo governo si deve instaurare lì a Tripoli, e quindi è necessario che vi sia un accordo politico, ma anche un accordo che garantisca l'incolumità fisica del nuovo governo. Questo tempo limitato anche l'ISIS lo conosce, anche l'ISIS sa che c'è un tempo limitato nel quale, come dire, se questo avvenisse i loro spazi di manovra si sarebbero ridotti fortemente, e quindi stanno giocando anche loro il tutto per tutto, e agiscono con il modus operandi classico dell'ISIS, che non è un'avanzata frontale, ma molte volte abbiamo visto come ha operato in Iraq, ad esempio, è quello di fare degli attentati in alcune città come una sorta di avamposti per creare il disordine, il panico e poi infiltrarsi. È lo stesso modus operandi che stanno cercando di compiere in Libia, naturalmente con una sorta di intimidazione maggiore verso le istituzioni che la comunità internazionale e i libici di buona volontà stanno cercando di creare, ed è per questo che è stato colpito, insomma, colpite le forze di polizia, forze dell'ordine, che cercano di ricomporsi in un quadro di completa anarchia, in realtà. Certo, come dicevamo, di semi-anarchia, quindi fin quando ci sarà l'anarchia e l'ISIS sa benissimo che troverà un terreno fertile per proliferare. Tra l'altro adesso leggo un'agenzia di pochi istanti fa che gli Stati Uniti condannano con forza l'attentato dell'ISIS, lo afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando come gli Stati Uniti daranno a quel governo tutto il sostegno politico, cioè dicono la necessità di formalizzare al più presto un governo di unità nazionale, daranno a quel governo tutto il sostegno politico ed economico e l'assistenza necessaria sul fronte della sicurezza e della lotta al terrorismo, ma prima chiaramente si deve formare, come diceva Varvelli, questo governo nazionale. Tra l'altro ricordiamo in chiusura che non è che l'ISIS è soltanto, diciamo, ansioso di guadagnare territori così solo fine a se stessi, ma punta per esempio in Libia al controllo delle ricchezze petrolifere del paese, no? Chiaramente. Sì, è così, è anche un modo d'azione che ha avuto anche in Siria e in Iraq. Naturalmente ottenere il controllo di alcune infrastrutture è essenziale per garantirsi una sussistenza. Abbiamo visto che l'ISIS opera in maniera molto diversa rispetto a organizzazioni terroristiche precedenti, non è una setta clandestina come Al-Qaeda, ma fa del controllo territoriale e vuole essere uno Stato, vuole sostituirsi allo Stato, creare uno Stato, fa attività protostatuali, quindi controllare il territorio vuol dire controllare anche l'economia locale, quindi controllare alcuni, se non pozzi di petrolio, ma alcune infrastrutture, alcuni terminal, certamente permette ad esempio di attivare attività illecite, traffici illeciti che possono permettere degli introiti importanti, e questo vuol dire finanziare anche campagne, ulteriori campagne militari e terroristiche all'interno del paese. Grazie Arturo Varvelli dell'ISPI. Grazie a voi. Grazie, buon anno. Grazie. Siamo alla viabilità e tra poco parleremo ancora dei fatti di Colonia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. A proposito del sondaggio del Censis che vi ho ricordato più volte, Giorgio sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: cambiare abitudini sarebbe cominciare a morire, io non riuscirei neppure, bel difetto. Dice Paolo a sua volta invece scrive: più il popolo ha paura più il potere è sicuro. E Marco: con tutta la mafia che abbiamo in Italia possiamo stare tranquilli, a proposito appunto della paura invece del terrorismo. Adesso però vi ricordo le notizie più importanti, come sempre quando ci lasciamo per un pochino, e poi torniamo a approfondire la vicenda di Colonia. Allora, la tempesta ancora le borse per quanto riguarda le difficoltà dei mercati in questi giorni. L'Europa apre con difficoltà e poi dopo le perdite invece si riducono. Parigi ucciso un marocchino fedele dell'ISIS, ne abbiamo parlato, un ventenne che era entrato in un commissariato con una specie di coltello da macellaio. E poi in Libia questo camion bomba, un attacco kamikaze che fa strage di poliziotti, almeno 74 i morti. Il pugno duro di Angela Merkel sugli abusi, a proposito di quello di cui parleremo tra pochissimo, mentre la Slovacchia annuncia basta musulmani nei nostri confini. La disoccupazione in Italia giù a novembre, all'11,3% è la percentuale più bassa dal 2012. E l'Iran che accusa l'Arabia Saudita, bombardata l'ambasciata nello Yemen, ne abbiamo parlato in modo approfondito all'inizio. Mafia Capitale, condannato l'ex assessore Ozimo, e sul caso Quarto interviene Grillo, dice: Movimento 5 Stelle non ha mai ceduto alla camorra. Ritorniamo allora, dicevo, sulla vicenda delle molestie sessuali di massa alle donne a Colonia, in Germania, la sera di Capodanno. Le denunce sono state oltre 120 presentate dalle vittime. Sta diventando, oltre a una vicenda gravissima, se appunto si conferma come tale, un caso politico non solo tedesco ma anche internazionale. Altre denunce sono arrivate anche da altre città tedesche come Amburgo e poi anche da Salisburgo in Austria. La cancelliera Merkel non esclude allora a questo punto limiti, ha detto, a prestazioni per gli immigrati. E c'è questa decisione importante, che potrebbe avere delle importanti ripercussioni chiaramente, della Slovacchia, che ha detto: dopo questo caso decidiamo di non accettare più, di non accogliere più profughi musulmani. Ne vorrei parlare con Tobias Piller, che è corrispondente dall'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Buonasera Tobias. Buonasera. Ciao Tobias. Senti, qualcuno ha sollevato anche dei dubbi nelle ultime ore, dicendo: ma è strano, però possibile, la polizia non si è accorta di nulla, è possibile che questi uomini abbiano agito in modo organizzato, forse sono le solite schermaglie o i soliti atteggiamenti sgradevoli di quando ci sono folle di persone. Che cosa si dice in Germania a questo punto, Tobias? Ma certamente essersi sicuri che questo è un fenomeno nuovo e sembra certamente che la polizia e anche i politici prima non ne avevano tenuto conto di questo e certamente la polizia non era preparata, non sapeva dove guardare, non ne aveva sensibilità su questa cosa. È certamente chiaro, se uno ha 1 milione di persone che sono arrivati da rifugiati o migranti e vogliono asilo politico, ci sono dei posti dove ci sono migliaia di quelli a trovare un posto per pernottamenti temporanei prima che ci sia tutto quel processo amministrativo su riconoscimento o no. E certamente è chiaro che si potevano anche mettere insieme in modo spontaneo, o c'è l'altra ipotesi che c'erano già delle bande di criminali che così derubavano delle persone in queste zone. Senti, comunque è confermato, Tobias Piller, che fossero di origine nordafricana questi uomini? Sembra, ma non, neanche questo è veramente facile da accertare. E certamente ci sono le persone che dicono che era così, ma era buio, erano le situazioni fugaci, e certamente ci sono politici che negano che ci siano stati dei rifugiati. Sembra comunque che ci siano almeno dei episodi con rifugiati. Ma adesso questa decisione della Slovacchia, Tobias, ha avuto qualche eco già in Germania, anche se appunto la Merkel è indignata, ha detto che saranno colpiti duramente, che non esclude delle limitazioni ai contributi, alle prestazioni per gli immigrati? Mi sembra che la Slovacchia non influenza molto la Germania. In Germania stessa c'è un groviglio di opinioni e anche problemi e linee sulla discussione, perché mettiamo come un po' di punti che c'è certamente la Germania, visto la sua storia, ha tanta gente che vuole essere buonista e vuole mai sembrare xenofoba o razzista. Solo alla Germania dell'Est nei tempi del comunismo si diceva così, i nazisti erano gli altri, mentre certamente qualcuno passava dal nazismo direttamente al comunismo storicamente, e poi quelli dell'Est non sempre avevano grandi esperienze con l'immigrazione, così lì c'è qualche gruppo di destra in più. In questa situazione certamente si cercava di essere buoni, di accogliere gli immigrati, e è nata una grande discussione nell'arco della politica, perché dentro la CDU della Merkel, voleva fare l'accogliente, e dentro il proprio partito c'erano anche quelli di destra e dicevano già da tempo che non va avanti così, bisogna mettere più limiti. E nella grande coalizione allo stesso momento ci sono i socialdemocratici che sono ancora più buonisti, si può dire, e che ancora oggi dicono non creare panico, bisogna non essere troppo severi con gli immigranti o con i richiedenti asilo. E abbiamo avuto 6 mesi di litigio sul palco politico dentro al governo della grande coalizione, e più a sinistra ci sono ancora i Verdi e altri che sono ancora più prone di fronte, più disponibili di fronte all'immigrazione. Quelli che erano più così amichevoli all'immigrazione e ai rifugiati certamente sono stati i primi a fare adesso le conferenze stampa, a dire bisogna adesso perseguitare quelli che hanno fatto questo e non fare di tutta erba un fascio. Ma poi ci sono altre discussioni, perché la polizia è cosa dei Länder in Germania, e questo Land della Nordrhein-Westfalia è governato da una signora che voleva per tempo essere la concorrente della Merkel, e così è della sinistra. E così il ministro dell'interno lì della sinistra, e a Berlino abbiamo un ministro dell'interno della destra che è stato sempre criticato per presunta incompetenza, non essere in grado di gestire questo milione di profughi. Tobias Spiller, comunque salutandoci, dico che la Merkel in ogni caso ha riconosciuto che ci sono questioni aperte molto serie, dice, che vanno al di là dei fatti di colonia e che gli attacchi hanno dimostrato che in alcuni luoghi vi è un vero e proprio disprezzo delle donne. Vedremo come proseguirà questo dibattito anche all'interno della Germania. Grazie intanto Tobias Spiller. Grazie, buon lavoro. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas. Così continua a ripetere Enrico Pagliarini, viva Las Vegas, perché lì per la più grande fiera della tecnologia c'è anche un'operazione nostalgia lì al CES, mi pare, però Enrico Pagliarini, non solo il ritorno al futuro ma pure al passato? Polaroid, dice, i giradischi. Sì, beh certo, guarda, forse visto che noi facciamo la radio e la facciamo ai noi da qualche anno, molti dei nostri ascoltatori ricorderanno i giradischi mitici della Technics DSL-1002, che Panasonic, che oggi ha il brand Technics, ha riproposto e verranno rilasciati sul mercato quest'anno. Questa è una delle tante operazioni nostalgia. Poi c'è anche appunto Polaroid, che ripropone alcune cose che fanno un po' la eco con il passato. Però volevo dirvi una cosa molto interessante a cui sono stato questa mattina. Questa mattina sono stato ad un appuntamento legato alla moda, si chiama Fashion Wear, una fiera dentro la fiera, perché il mondo della moda sta guardando con molta attenzione al mondo della tecnologia, perché i sensori che hanno fatto il successo degli smartphone, sensori di movimento, sensori di temperatura, ci sono tantissimi tipi di sensori, sono oramai così piccoli e così a basso costo che possono essere inseriti anche nei vestiti. E questo è un trend sicuramente molto interessante, lo stiamo già vedendo con i braccialetti, con gli orologi che hanno dei sensori e che stanno anche diventando prodotti di moda, ma il settore moda sta guardando un po' oltre e sta pensando, già qualcuno lo sta facendo, ma stiamo ancora parlando di esempi molto molto particolari, però diciamo tutti i grandi brand della moda stanno guardando ai sensori da inserire nei vestiti, magari per controllare il movimento che facciamo senza aver bisogno di un braccialetto che conta i passi della giornata, ad esempio, ma insomma gli esempi possono essere tanti. Ma ce le farai anche domani, Enrico Pagliarini, lì da Las Vegas, che non finisce il tuo divertimento, le tue scoperte. Grazie Enrico Pagliarini, noi ci risentiamo alle 22.